Ad alta voce, Elia Shilton legge Fame di Knut Hamsun, traduzione di Erwinio Pocar. A quel tempo ero affamato e andavo in giro per Cristiania, quella strana città che nessuno lascia senza portarne i segni. Ero coricato, sveglio nella mia soffitta. Sotto di me una pendola suonava le 6. Era già piuttosto chiaro. Sulle scale si sentiva una certa animazione. In basso, accanto alla porta, dove la parete era tappezzata con vecchi numeri del Mohan Blade, distinguevo benissimo un avviso del direttore dei fari. Un po' più a sinistra, il fornaio Fabian Olsen elogiava a lettere cubitali il suo pane fresco. Appena aperti gli occhi mi ero messo a riflettere. Ci sarà oggi qualche cosa che mi possa dar gioia? Gli ultimi tempi erano stati per me piuttosto magri. Della mia roba, un pezzo dopo l'altro, era andato al Monte di Pietà. Ero diventato nervoso e irascibile. Alcune volte ero rimasto a letto perfino di giorno con il capogiro. Quando la fortuna mi assisteva, riuscivo a prendere 5 corone per un articolo che qualche redazione mi accettava. Via via che la luce aumentava, incominciai a leggere gli avvisi economici là in fondo, vicino alla porta. Riuscivo a distinguere perfino le lettere sottili e beffarde a topi funebri presso la signora Anneschen nel portico a destra. Per un po' mi fermai l'attenzione e solo quando sentii la pendola suonare le 8 mi alzai e mi vestii. Aperta la finestra guardai fuori. Il panorama era una funera biancheria e l'aperta campagna. In lontananza sorgevano i ruderi di un'officina distrutta da un incendio. Alcuni operai li stavano demolendo. Appoggiati i gomiti sul davanzale, guardai il cielo che prometteva una bella giornata. Era arrivato l'autunno, la stagione fresca e delicata nella quale ogni cosa si scolora e trapassa. Le strade erano già piene di rumori che mi invitavano a uscire. Quella mia soffitta nuda col pavimento che cedeva a ogni passo era come una bara tarlata, raccapricciante. Non aveva neanche una serratura decente né una stufa. Di notte mi tenevo di solito le calze per trovarle un po' asciutte al mattino. L'unica cosa che mi dava piacere era una piccola sedia a dondolo verniciata di rosso. Mi ci sedevo ogni sera e mezzo appisolato pensavo a un'infinità di cose. Quando il tempo era burrascoso e il portone di casa era aperto, si udivano strani fischi attraverso il pavimento e le pareti, e nel Mohan Blade, laggiù presso la porta, si aprivano squarci lunghi una spanna. Mi levai di lì e andai a rovistare in un fagotto che tenevo nell'angolo dietro il letto per vedere se c'era qualche cosa da mettere sotto i denti, ma non trovai nulla e ritornai alla finestra. Chissà, pensavo, se tutte le mie ricerche di lavoro saranno vane. I numerosi rifiuti, le mezze promesse, i no chiari e tondi, le speranze nutrite e deluse, i nuovi tentativi sempre infruttuosi, tutto ciò aveva smorzato il mio coraggio. Ultimamente mi ero presentato per un posto di fattorino di banca, ma ero arrivato troppo tardi. Oltre a ciò, non avrei potuto versare le 50 corone di cauzione. Qualche ostacolo c'era sempre. Avevo provato ad arruolarmi anche nei pompieri. Nell'atrio saremmo stati in 50, il petto in fuori per darci aria di forza e di grande ardire. Un alto funzionario squadrò i concorrenti, palpò le braccia, fece alcune domande, ma, arrivato a me, passò via limitandosi a scrollare il capo e a dire che ero scartato per via degli occhiali. Mi presentai una seconda volta senza occhiali e, aggrottando le sopracciglia, aguzzai gli occhi come punte di spillo. Quell'uomo mi passò davanti di nuovo e sorrise. Probabilmente mi aveva riconosciuto. Ma il peggio era che i miei abiti si andavano logorando al punto che non potevo più concorrere decentemente ad alcun posto. Com'ero caduto in basso, con moto preciso e uniforme, finché un giorno, strana cosa, mi trovai senza nulla, senza nemmeno un pettine o un libro da leggere, e fui molto triste. Durante tutta l'estate mi ero aggirato nei cimiteri o nel parco del castello, dove mi ero seduto a scrivere articoli per i giornali, una colonna dopo l'altra, sui più svariati argomenti, capricci, fantasticherie singolari, trovate del mio cervello irrequieto. Nella mia disperazione avevo scelto talvolta gli argomenti più astrusi, mi ci ero torturato a lungo, senza riuscire a collocarli presso un giornale. Appena finito un articolo, ne incominciavo un altro. Il rifiuto del redattore mi scoraggiava di rado. Continuavo a ripetermi: una buona volta dovrò pur riuscire. Infatti, ogni tanto avevo fortuna e riuscivo a sfornare qualche pezzo intelligente e per il lavoro di un unico pomeriggio incassavo 5 corone. Mi staccai dalla finestra e, avvicinatomi alla sedia dove era il cattino, mi inumidii leggermente i calzoni lustri al ginocchio per farli sembrare un po' più neri e decenti. Poi mi infilai in tasca, come al solito, carta e matita e uscii. Scesi le scale piano piano, senza far rumore, per non destare l'attenzione della padrona di casa. Già da qualche giorno la pigione era scaduta e io non ero in grado di pagare. Erano le 9. Voci e fragore di carri empivano l'aria. Era un enorme coro mattutino inframmezzato dai passi della gente e dallo schioccare delle fruste. Quel movimento rumoroso finì per svegliarmi del tutto e per darmi a poco una certa sensazione di contentezza. Nessuna idea più lontana da me che quella di fare una passeggiata all'aria fresca del mattino. I miei polmoni non avevano bisogno d'aria. Ero robusto come un gigante e con le spalle avrei potuto fermare un carro. Una strana sensazione. Un senso di gaia spensieratezza si era impadronito di me. Presi ad osservare i passanti, lessi i manifesti sui muri delle case, colsi un'occhiata gettatami da una carrozza del tramvai che passava, aprii i sensi a ogni inezia, a tutti i piccoli casi che attraversavano la mia strada e scomparivano. Avessi avuto in una giornata così serena qualche cosa da mangiare. Come mi sentivo soggiogato dal mattino luminoso. Fuori di me dalla contentezza parlottavo da solo e non sapevo perché. Davanti a un macellaio c'era una donna con la sporta al braccio. Stava chiedendosi se doveva acquistare le salsicce per la cena. Quando le passai accanto mi guardò. Aveva un unico dente. Nervoso e impressionabile com'ero in quei giorni, provai alla vista di quella donna un'immediata sensazione di disgusto. Quel dentone giallo sembrava un mignolo ritto sulla mascella e lo sguardo che ella mi lanciò era ancora tutto pregno di salsiccia. Perdetti subito l'appetito e mi venne la nausea. Arrivato al mercato, presso la caserma dei pompieri, mi accostai alla fontana e bevvi un sorso d'acqua. Alzai gli occhi. L'orologio della chiesa del Redentore segnava le 10. Senza pensieri, continuai a gironzolare per le strade, fermandomi senza alcun bisogno alle cantonate, infilando qua e là una traversa senza alcun motivo. Tutto mi era indifferente e mi abbandonavo al gaio mattino, lasciandomi portare e spingere tra quell'umanità felice. Il cielo era sereno, senza una nube e senza ombre era il mio cuore. Da 10 minuti avevo davanti a me un vecchio che camminava zoppicando. Portava un fagotto e nel muoversi ondeggiava continuamente. Arrancava con forza per portarsi avanti in fretta. Lo udivo ansimare per lo sforzo e allora mi venne l'idea che quel fagotto potevo portarglielo io. Ma non mi affrettai a raggiungerlo. Più su nella grense incontrai Hans Pauli, che mi salutò passando. Perché aveva tanta fretta? Non avevo alcuna intenzione di chiedergli una corona a prestito. Oltre a ciò, intendevo rimandargli al più presto la coperta che mi aveva prestato alcune settimane prima. Appena mi fossi trovato un po' in buone acque, non volevo essere debitore di una coperta a nessuno. Quel giorno stesso avrei incominciato un articolo sui delitti dell'avvenire o sul libero arbitrio o su qualcos'altro, sempre ben inteso su un argomento interessante per il quale potevo ricevere almeno 10 corone. E quest'idea mi entusiasmò talmente che decisi di incominciare subito. Avevo il cervello in fermento, mi sarei cercato un posticino tranquillo nel parco del castello e non avrei smesso prima di arrivare alla fine. Ma il vecchio storpio arrancava ancora davanti a me e io cominciavo a irritarmi. Il suo cammino mi sembrava senza fine. Forse andava dove andavo io e l'avrei avuto davanti a me per tutta la strada. Nella mia eccitazione mi sembrava che a ogni traversa egli avesse un momento di esitazione, come per vedere quale direzione avrei preso io. Dopodiché agitava il fagotto e proseguiva zoppicando faticosamente e cercando di conservare il suo vantaggio. Io me lo vedevo sempre davanti, così malconcio e traballante, finché mi infuriai. Sentivo che quell'individuo mi sciupava la serenità e con la sua bruttezza mi insudiciava la bella e limpida mattinata. Pareva un mostruoso insetto strisciante che a qualunque costo volesse conquistarsi un posto nel mondo e avere tutto il marciapiede per sé. Infine, non ne potei più. Al culmine della salita mi fermai davanti a una vetrina per dargli la possibilità di sparire. Dopo qualche minuto mi rimisi in cammino ed eccolo ancora là, davanti a me. Aveva aspettato anche lui. Furibondo, senza riflettere, lo raggiunsi con 4 salti e gli battei sulla spalla. Egli si fermò e per alcuni istanti ci guardammo in faccia. 2 soldi per il latte, disse infine reclinando la testa su una spalla. Bel risultato. Mi ficcai le mani in tasca e risposi: già, per il latte. Oggi c'è miseria per tutti e non so fino a che punto ne abbiate bisogno. Non mangio da ieri a Drammen, disse l'uomo. Siete operaio? Sì, ciabattino. Come dite? Ciabattino, ma so fare anche scarpe. Allora è un'altra cosa, soggiunsi. Se potete aspettare qualche minuto, posso procurarvi un po' di denaro, qualche centesimo. E infilai in fretta la Pile Strede, dove a un secondo piano abitava uno che faceva prestiti su pegno. Da lui non ero mai stato. Già nel vestibolo mi tolsi rapidamente il panciotto, ne feci un rotolo e me lo misi sotto il braccio. Poi salii le scale e bussai. Feci un inchino e buttai il panciotto sul banco. «Una corona e mezza», disse l'uomo. «Va bene, grazie», risposi. «Se non mi fosse troppo stretto, non lo impegnerei». Presi il denaro, la polizza di pegno e uscii. Quella del panciotto era stata del resto un'ottima idea. Mi sarebbe rimasto il denaro per una colazione succulenta e prima di sera la mia dissertazione sui delitti dell'avvenire doveva essere belle pronta. La vita mi parve già più sopportabile. Ritornai dal vecchio per liberarmene. «Ecco qua», dissi. «Sono contento che vi siate rivolto prima di tutti a me». Quello prese il denaro e cominciò a squadrarmi. Che cosa gli passava per la mente? Avevo l'impressione che fissasse specialmente le ginocchia dei miei calzoni. Una bella sfacciataggine. Credeva che fossi veramente povero come parevo. Non avevo, per così dire, in lavorazione un articolo da 10 corone. In genere non temevo affatto l'avvenire. Disponevo di molte risorse. Che cosa importava dunque a quell'estraneo se in una giornata così stupenda mi concedevo il lusso di offrire un'elemosina? Le sue occhiate mi fecero perdere le staffe, sicché decisi di dirgli il fatto suo prima di allontanarmi. Alzai le spalle ed esclamai: «Caro signore, voi avete preso la brutta abitudine di guardare le ginocchia a chi vi offre mezza corona». Quello reclinò la testa e spalancò la bocca. Qualche cosa doveva mulinare nel suo cervello di mendicante. Certamente pensava che volessi pigliarlo in giro e fece l'atto di restituirmi il denaro. Io pestai i piedi e mi misi a imprecare se lo tenesse quel denaro. Immaginava forse che mi fossi preso tutte quelle seccature per niente. A guardar bene, io gli ero forse debitore di quella corona. Sono di quelli, io, che si ricordano dei vecchi debiti. Ed egli si trovava davanti a una persona onesta, onesta fino alla punta dei capelli. Per farla breve, quel denaro era suo. No, niente, grazie, è stato un piacere per me. Addio. E me ne andai. Finalmente mi ero liberato di quella piaga dolorosa e potevo proseguire indisturbato. Ridiscesi la pila strede e mi fermai davanti a un negozio di commestibili. La vetrina era piena zeppa di cose da mangiare. Decisi di entrare e di comperare qualche cosa. «Un pezzo di formaggio e un pane bianco», esclamai buttando sul banco la mia mezza corona. «Pane e formaggio per tutto l'importo?» domandò la padrona ironicamente senza guardarmi. «Sì, per tutti i 50 centesimi», risposi senza scompormi. Avuta la mia roba, augurai con la massima gentilezza il buongiorno a quella vecchia grassa e mi diressi in fretta al parco attraverso il colle del castello. Trovai una panchina solitaria e mi buttai voracemente sulle provviste. Ciò mi fece bene. Un pasto così abbondante non l'avevo più fatto da parecchio tempo, sicché provai a mano quella sazia tranquillità che si prova dopo un gran piangere. Sentii crescere enormemente il mio coraggio. Ora non mi accontentavo di scrivere su un argomento così semplice e ovvio come i delitti dell'avvenire, argomento del resto che non presentava enigmi. Bastava un'occhiata alla storia e era chiaro tutto. Ora mi sentivo capace di affrontare ben altri compiti. Ero talmente di buon umore che avrei saputo risolvere quesiti assai più difficili. Perciò mi decisi per un saggio in 3 parti sulla conoscenza filosofica. Certo, mi si sarebbe presentata l'occasione di far la festa ad alcuni sofismi kantiani. Ma mentre stavo per prendere l'occorrente per scrivere e mettermi al lavoro, mi accorsi che non avevo più la matita. L'avevo dimenticata nel panciotto impegnato. Dio, come tutto sembrava accanirsi contro di me. Imprecai, mi alzai e mi misi a correre rabbiosamente per il parco. Vi regnava un grande silenzio. Lontano, presso il padiglione della regina, un paio di ragazze spingevano le carrozzelle coi bambini. Tranne quelle, non si vedeva anima viva. Io passeggiavo furibondo in su e in giù davanti alla mia panchina. Strano, tutto congiurava contro di me. Un lungo articolo in tre parti doveva andar perduto per la ridicola circostanza che non avevo in tasca un mozzicone di matita da 10 centesimi. Era forse il caso che ritornassi nella pile strede per riavere la mia matita. Mi sarebbe rimasto ancora tempo per scrivere un buon tratto prima che la gente venisse a passeggiare nel parco e a disturbarmi. D'altro canto, molto dipendeva da quella dissertazione sulla conoscenza filosofica. Forse anche la felicità di molte persone, chi può dirlo? Dicevo tra me che quel mio scritto poteva aiutare molti giovani. Ripensandoci, non avrei però attaccato Kant. Si poteva farne a meno. Senza parere potevo benissimo evitare la questione del tempo e dello spazio. Ma quanto a Renan, il vecchio pastore Renan, non garantivo nulla. Quel che contava soprattutto, però, era scrivere un articolo così e così di tante colonne per poter pagare la pigione. La faccia scura che la padrona faceva ogni mattina se mi incontrava per le scale mi perseguitava tutta la giornata e si insinuava persino nei miei pochi momenti sereni quando i pensieri tetri mi lasciavano in pace. Era ora di finirla. Mi incamminai in fretta per andare a ritirare la matita. Elia Shilton ha letto Fame di Knut Hamsun, traduzione di Ervinio Pocar. A cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.